e dammi un kiss e poi chissene. Non farla miss, fai il diss e chissene. Ma sì, fai così dai chissene. Ehi, guardami, sfiorami, kiss, chissene, chissene. E dammi un kiss e poi chissene. Non farla miss, fai il diss e chissene. Ma sì, alla fine chissene. Ehi, guardami, sfiorami, kiss, chissene, chissene. Non cambierei i miei panni, tranne forse un po' di pancia tipica di chi mangia merda per anni. Noi mendicanti crediamo in falsi santi, voglia di vendicarsi comprando 20 grammi. Cambi caratteriali fatti per cavarti le ali, caldi corpi tutti uguali, tanti volti, molti cari qua. Non basterà più sangue freddo e pelle dura, l'uomo è bestia ed egoista per natura, per paura. Passavo notti in salma respirando l'asma, la mia sagoma pallida sembra un citoplasma. L'esistenza è consapevolezza, nel mio caso mens fredda e corpore da fantasma. Benvenuto dentro questa città, benvenuto nella vita delle mediocrità. Qui la gente si dimentica di quello che sa, e per questo quel che vedi è vero solo a metà. Vivo egocentrico, nemico eccentrico, ogni concetto mi concentro eppure cambierò per guardare in faccia ciò che ho amato, ciò che ho odiato, ciò che ho vissuto. Vivo egocentrico, mi vedo pessimo, ma ne convengo e nego il senso eppure cambierò per guardare in faccia ciò che è stato, ciò che ho dato, ciò che ho ricevuto. E vaffanculo a chi non ha creduto né in me, né in quello che ho detto, né in quello che ho fatto. D'altronde ci vuole coraggio più di quanto serva ad ammettere che di fatto poi non me ne fotte un cazzo tanto. La gente mormora, dice che spacco, beh, sarò franco, predica l'ascolto ma non sa com'è sentire tutto il mondo su di me, dire che merito mentre quel merito condisce crudite. Basta, marzo sento caldo, aspetto l'alba, le luci delle 5:30 marcano la guancia. Vorrei controllare il mal di stomaco ma come un comico riempio la pancia di risate e vesto l'ansia. Forza che stavolta è quella buona, prova ancora. Grazie a tante stronzi, poi è normale che punta alla gloria. È l'illusione che mi incanta adesso come allora. Allora tarda, canto, sento una voce che canta. Vivo egocentrico, nemico eccentrico, ogni concetto mi concentro eppure cambierò per guardare in faccia ciò che ho amato, ciò che ho odiato, ciò che ho vissuto. Vivo egocentrico, mi vedo pessimo, ma ne convengo e nego il senso eppure cambierò per guardare in faccia ciò che è stato, ciò che ho dato, ciò che ho ricevuto.